di Federico Maria Sardelli, L'affare Vivaldi. Sellario Editore, Palermo, 2015. Presentazione. La storia della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi è davvero andata così. Diversamente dalla frase che i romanzieri pongono di solito alla fine del loro lavoro, io devo invece assicurare che i fatti narrati sono realmente accaduti e solo in pochi casi ho dovuto reinventare. La concatenazione degli eventi, per quanto bizzarra possa sembrare, è dovuta alla storia. Se conosciamo Vivaldi quanto lo conosciamo oggi, oltre le quattro stagioni, ciò è dovuto alle peripezie dimenticate, assurde, incredibili, comiche, cariche a volte di suspense, intricate come uno spettacolo drammatico e farsesco, che questo romanzo storico rivela. Il prete rosso, passato di moda dopo una vita di successi, morì in miseria indebitato fino al collo. I manoscritti, con la sua musica inedita, raccolta in centinaia di partiture autografe, passarono di mano in mano fra bibliofili e lasciti ereditari, scomparendo per quasi due secoli. Riemersero, seguendo vie accidentate e occulte, grazie al congiungersi dell'avidità di un vescovo salesiano e l'intelligente intuito di due studiosi appassionati, Gentili e Torri, musicologo dell'Università di Torino il primo e direttore della Biblioteca Nazionale della città il secondo. Ma da questo momento in poi gli autografi del musicista veneziano dovettero passare nuove disavventure. Causa, stavolta, l'indifferenza dello Stato, l'odiosa idiozia antisemita del regime fascista, l'opportunismo e l'ingratitudine dei nuovi padroni dell'Italia. Federico Maria Sardelli è uno dei massimi esperti di Vivaldi, nonché scrittore satirico. Egli ricostruisce il destino delle carte del grande compositore seguendo due percorsi, da un lato gli eventi successivi che lo seppellirono nell'oblio dal 1741 alla riscoperta, dall'altro la caccia all'indietro che i due miti eroi intrapresero per recuperarle, e poi le vicende pazzesche legate al tentativo di renderle aperte alla fruizione pubblica, con il triste epilogo. È un apologo, umoristico e tragico, della ben nota insensibilità dello Stato italiano verso i suoi patrimoni più nobili e della sua ingratitudine, ma vuole anche ristabilire una verità storica ed essere un tributo. Luigi Torri ed Alberto Gentili sono i veri eroi di questa vicenda. Se oggi conosciamo Vivaldi, lo dobbiamo al loro fiuto, alla loro intelligenza, al loro infaticabile sforzo. Federico Maria Sardelli, nato a Livorno nel 1963, è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi e responsabile del catalogo vivaldiano. Direttore d'orchestra e flautista, con prime incisioni ed esecuzioni mondiali tra cui riscoperte e attribuzioni di opere vivaldiane, è un protagonista della rinascita del teatro musicale del Prete Rosso. Ha scritto la musica per flauto di Antonio Vivaldi nel 2002 e dirige le collane di musica vivaldiana. Fumettista e autore satirico, Paperi in fiamme e saggi di metafisica neorazionalista con un metodo sicuro per indovinare i gratta e vinci tra le sue opere. Collabora con il Vernacoliere dall'età di 12 anni. Thank you. Personaggi principali. I manoscritti di Antonio Vivaldi, ossia tutto l'archivio personale del compositore, contenente centinaia di composizioni originali. Margarita e Zanetta Vivaldi, sorelle zitelle di Don Antonio. Nane Borello, Fante dei Censori, ossia messo del tribunale. Francesco Vivaldi, parrucchiere e libraio, fratello di Don Antonio. Zuan, garzone della bottega di parrucchiere di Francesco Vivaldi. Marcello Durazzo, Patrizio Genovese, Francesca D'Appassano, sua consorte, Alma, loro domestica, Artabano Tosi, creditore di Don Antonio Vivaldi, Antonio Gasparini, notaro, Monsignor Federico Emanuel, salesiano in carriera, il suo padre, economo presso il Collegio San Carlo, generale Ettore Mazzucco, podestà di Alessandria, general Ugo Cavallero, senatore, presidente dell'Ansaldo, poi eroe della guerra d'Etiopia. Commendator Carlo Grassi, munifico benefattore, Jacopo Soranzo, patrizio veneto, senatore e bibliofilo, Antonio Soranzo, patrizio veneto, di scarsa figura e statura, tre servitori del suddetto, Alberto Gentili, musicologo, direttore d'orchestra, compositore, professore di storia della musica all'Università degli Studi di Torino, Luigi Torri, direttore della Biblioteca Nazionale di Torino e soprintendente bibliografico per il Piemonte e la Liguria, compositore e musicologo. Amelia, sua moglie. Faustino Curlo, marchese e bibliotecario della Biblioteca Nazionale di Torino. Maria Pierina Piron, sposata Curlo, sua moglie. Depi, caffettiere Pettegolo, il signor Pancrazio, Pettegolo. Matteo Luigi Canonici, gesuita e bibliofilo. Pasquale, suo servitore. Alvise e Girolamo Corner, patrizi veneti. Roberto Foà, agente di cambio ebreo. Diodata Segre, sposata Foà, sua moglie. Mauro Foà, loro figlio, morto a un anno di vita. Giacinta, domestica di casa Foà. Adelina, governante di casa Foà. La signora Virginia Agnelli, Mario Cannello, il professor Lionello Verturi, amici e ospiti del grande ufficiale Roberto Gualino. Giacomo Durazzo, ambasciatore imperiale a Venezia e bibliofilo. Ernestine Ungland von Weyrenwolf, sua consorte. Girolamo Diedo, patrizio veneto. Sei sbirri di mare. Flavio Durazzo, patrizio genovese, fratello di Marcello. Giuseppe Maria IV Durazzo, patrizio genovese, padre dei suddetti. Padre Ferdinando, suo confessore. Giuseppe Maria V Durazzo, patrizio genovese, figlio di Flavio. Filippo Giordano, industriale tessile e grande ufficiale. Renzo Giordano, suo figlio, morto a 12 anni di vita. Benito Mussolini, capo del governo, primo ministro, segretario di Stato, duce del fascismo. Arnaldo Bruschi, tipografo e anarchico. Ezra Pound, poeta americano e propagandista del regime fascista. Olga Raggi, violinista, suo amante. Gino Tamburini, direttore della Biblioteca Nazionale di Torino, successore di Luigi Torri. Don Nicola, segretario di Monsignor Federico Emanuele a Castellammare di Stabia, ragionier commendatore Amilcare Sciarretta, presidente dei Ludi Fascisti Stabiensi, cavalier Silvio Solari, podestà di Rapallo, Lucy Mabel Rice, James Laughlin, marchesa Pallavicino Gropallo, donna Alfieri Bonomi, onorevole Alessandro Lessona, amici e ospiti di Ezra Pound a Rapallo. Attilio Bulgaroni, sottocapo manipolo della Legione Ferrea, quinta centuria della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Artemio Robecchetti, camicia nera scelta. Osvaldo Ricci e Ugo Catapiano, legionari fascisti. Dottor Elia Cassuto, medico ebreo. Anna Cassuto, sua consorte. Guido Chigi Saracini, patrizio senese, fondatore dell'Accademia Musicale Chigiana. Alfredo Casella, compositore e collaboratore del Conte Suddetto. Luigi Soccini Guelfi, podestà di Siena, Edoardo Pallante, prefetto di Siena, Vittorio Passalacqua, segretario federale del Partito Nazionale Fascista di Siena, professor Azzo Azzi, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Torino. Thank you. Venezia, venerdì 27 maggio 1740, Calle dei Favri, casa del reverendo Don Antonio Vivaldi. Appartamento al secondo piano, vuoto. Silenzio ovattato, rotto raramente da deboli voci che provengono dall'esterno. Nella camera grande che guarda sulla riva del Ferro, la luce dorata del mattino entra dai vetri di due finestre che danno sul canale e taglia in diagonale la stanza. Una delle due finestre è stata chiusa male e sbatte lenta sull'infisso, mossa da una lieve brezza che filtra, fa un rumore debole, ritmico, polvere dappertutto, che vola lentissimamente alla luce radente del mattino. Fra le due finestre un tavolino di noce addossato al muro, con sedia rivestita di cuoio nera, lasciata di traverso da chi vi si è alzato l'ultima volta. Sul tavolo, al centro, tre fascicoli di fogli di musica rigata a 10 pentagrammi per foglio. Sulla prima pagina si legge il titolo Confitebor. A fianco, sulla sinistra, una risma di lettere, conti, ingiunzioni. Sul lato destro, un calamaio con la penna lasciata dentro. L'inchiostro, ormai quasi tutto evaporato, è diventato un basso strato di poltiglia nera. Altre penne in un vasetto di rame di affianco. Macchie di inchiostro secco, di varia grandezza, si confondono con lo scuro del legno. Sul bordo del tavolo, verso il muro, un vassoietto rettangolare d'argento con un coltellino affilato per grattare la carta e appuntare le penne, un tagliacarte d'osso, un gomitolo di refe bianco, un ago grosso per cucire, due barrette di cera lacca già avviate. Sull'angolo sinistro del tavolo un candeliere a tre di peltro, con tre candele di sego quasi del tutto consumate. Sulla parete opposta alle finestre, due grandi armadi dipinti alla cinese con gli sporti aperti. I ripiani interni sono pieni all'inverosimile di risme di manoscritti musicali scritti su carta filigranata a tre lune, tutti ordinati con cura e segnalati da strisce di carta che pendono sotto ogni risma. Dalle strisce si può leggere: concerti ripieni, concerti per violin, cantate, drammi in musica veci, drammi in musica novi, ariette sciolte, magnificat a otto, per la pietà, carta a dieci, eccetera. Pochissimo lo spazio ancora disponibile, soltanto sopra la risma dei concerti per flautine e quella delle sonate a solo. Polvere anche qui. Dalla finestra chiusa male, un refolo solleva debolmente alcune carte della scrivania che si riposano piano, creando ogni volta un piccolo turbine di polvere che brilla alla luce e poi ricade lentamente. Silenzio. Al piano di sotto, trambusto di donne. Zanetta, battono giù all'uscio. Madre santa, ancora, ancora quello. Non ne posso più. Io esco di senno. È la quarta volta che. Veramente, sorella, è la terza. Eccola. La volete? L'avvocatessa. Sempre a voler fare la saputella. Guardate piuttosto dalla finestra del portico senza farvi vedere. Vado, ma calmatevi. Magari è soltanto la lucetta che lascia sempre dentro la chiave. Non vagitate. Magari è il signor Ambrosio che torna. Ma che. Avevate ragione, è ancora lui, quel maledetto fante dei censori, che il diavolo se lo porti. E senti come picchia! Ci prova gusto a spaventare la povera gente. Affacciatevi voi, Margherita, io non ce la faccio a rivederlo. Certo che mi affaccio io, ah, come gli romperei volentieri quel muso di cane. Eccomi, eccomi, basta là! Che c'è da battere, che c'è da gridare, che volete? Il sangue dei poveri cristiani? Sotto le finestre delle sorelle Vivaldi, sulla calle, il messo del tribunale, un giovane allampanato con la faccia da forca che andava fiero della sua carica, sfoderò un sorriso irritante mentre con la destra sventolava per la terza volta in pochi giorni lo stesso mandato di comparizione. Il sangue no, signora cara, basterebbero solo un po' di quattrinelli. Vorrà dire che anche oggi reciteremo la solita commedia. In nome degli eccellentissimi e onoranti magistrati dell'esaminator vengo io, Nane Borello, fante dei censori, a domandare se l'illustrissimo reverendo Don Antonio Vivaldi si trova in questa casa. Rispondete di sì o di no. No, no e no! Ve l'ho detto ieri, ve l'ho detto l'altro ieri. Quante volte ve lo devo ripetere che il nostro fratello è partito, che è fuori Venezia, che non sappiamo dov'è né quando tornerà. Provate a dirmelo in versi, oppure in ariette, di quelle che riescono tanto bene al vostro reverendissimo fratello, e io vi caverei volentieri dagli impicci se quel prete illustrissimo non se ne stesse a spasso per il mondo, lasciando debiti in tutta Venezia, con rispetto. Siete peggio d'un cane, voi tormentate la povera gente. Troppa grazia, signora mia, ma permettete al vostro cane umilissimo, prima di prendere congedo da una famiglia sì rara, di abbaiarvi quanto segue. Dite al vostro reverendissimo fratello che domani, se non verrà a sortire da sotto il letto dove si nasconde, troverà affisso al rialto l'avviso a comparire davanti al magistrato, come si fa coi debitori più scelti e coi ladri più illustri. Servo vostro, bau bau! Nella calle, tutti i ragazzi che avevano smesso di giocare per seguire la scena corsero allegri dietro Alfante, loro nuovo brighella che continuava a divertirli col verso del cane. Le finestre dei vicini cominciarono a richiudersi piano, una dopo l'altra. Anche per quel giorno lo spettacolo era finito. Margherita chiuse la sua per ultima, piano piano, tenendo lo sguardo fisso verso il nulla, girò il pomolo d'ottone con inusata delicatezza, come se fosse di vetro soffiato e avesse paura di romperlo. Poi volse i passi verso il centro della stanza e si sedette al tavolo dove Zanetta era rimasta impietrita ad ascoltare la scena. Stettero per un lunghissimo minuto in silenzio, poi, come d'un segnale muto che solo loro dovevano aver sentito, le due sorelle scoppiarono a piangere nello stesso momento. E piansero a lungo e singhiozzarono, mescolando in una litania convulsa gli spezzoni di frasi che ormai da mesi rimbalzavano fra le mura di quella casa. Un uomo così grande, costretto a essere inseguito da questa canaglia, come un ladro se n'è dovuto scappare il nostro povero fratello, chissà quando ritornerà. Da quando è morto nostro padre 4 anni fa, non ha più avuto pace, tutti contro, e quella strega del soprano che straziò le arie nell'ultima opera di Antonio, com'è che si chiamava? Ah, ecco, la Fumagalli, pretende anche d'essere pagata, e quel bel tomo di Chiapolin. Fate tesoro di me, anticiperò io a tutti i cantanti, canaglia da forca. Buoni invece quei due stolidi che suonarono le trombette, parevano elefanti ubriachi all'ultima recita, però come son corsi dal magistrato a frignare per il loro salario, e il nostro povero povero Antonio a dover sempre pensare a tutto e pagare tutto di tasca sua, copisti, pittori di scena, ballerini, marangoni, musici, almeno ci fosse lui ora a darci conforto, a pregare con noi. Cominci tu, Margarita. No, comincia tu. Va bene. Salve Regina, Mater Misericordix, e l'altra a seguire. Vita dulcedo, spes nostra, salve. Asciugate le ultime lacrime e ma Asciugate le ultime lacrime, bisbigliate le ultime confuse litanie, le due donne ripresero a muoversi per la casa, ma erano ormai lente, stanche, svuotate. Da 5 mesi tutto andava a rovescio. Altro che 5 mesi, erano gli ultimi 2 anni a essere stati tremendi, un'angoscia dopo l'altra, opere che saltavano, scritture da pagare, debiti e creditori sempre più incattiviti, e loro due vivevano della vita di Don Antonio, povere zitelle rimaste sempre attaccate al padre e al loro famoso fratello prete. Ma almeno finché era vivo Giovanni Battista, loro vecchio genitore, lui sì che sapeva trattare gli affari e i soldi. Antonio no, restava imbrogliato, faceva la voce grossa, ma poi non sapeva come uscire dai guai. Nessuno a Venezia aveva più voglia di ascoltare la sua musica e sopravvivere era diventato un inferno. 5 mesi prima, disperato, dopo l'ultima opera al Sant'Angelo, aveva venduto un po' di musica a quei taccagni dei governatori della Pietà e con quel gruzzolo se n'era partito nottetempo per Vienna, sperando che il suo amico, sì, così diceva lui, il suo amico imperatore, lo aiutasse come aveva fatto 10 anni prima a Trieste. Era stata l'ultima illusione. Avevano appena iniziato a metter sull'acqua per la polenta quando batterono nuovamente all'uscio. No, ancora quello! Gridò Margherita. Non credo, è un battito diverso, disse Zanetta, che era fine d'orecchio, e corse alla finestra. Francesco! Si illuminò d'un sorriso. Scendo subito ad aprirvi. Tornò su col fiato grosso ma felice dietro al fratello minore. Si abbracciarono in silenzio. Zanetta gli tolse il tricorno. Margherita gli porse la seggiola e in un attimo si trovarono seduti al tavolo. Ah, se foste arrivato un po' prima, anche stamani è tornato. Taci, so tutto. Vengo adesso dal notaro Barbolin e mi ha raccontato che domattina i censori daranno avviso al rialto contro il nostro fratello. Sapete che sarà? Un inferno ancora peggiore di questo. Chiunque vanti un qualche credito si precipiterà a chiederlo al magistrato e con loro anche tutte le canaglie e gli invidiosi che non devono avere un soldo ma che ne approfitteranno della cuccagna per pelare il prete rosso in sua assenza. E dove verranno a mungere? Qua sopra, nel suo appartamento e qua, in casa vostra. Referì Borello Fante dell'ufficio lì 24 maggio 1740. Aversi conferito alla casa della solita abitazione del reverendo don Antonio Vivaldi in contrada di San Salvador in Calle de Favri per ivi citare il suddetto al presente illustrissimo magistrato ad istanza di don Antonio Chiapolin ed essergli stato risposto dagli vicini esser fuori di Venezia nec non essersi pure conferito lì 25 e 27 suddetto come sopra ed essergli stato risposto come sopra. L'illustrissimo signor Gerolamo Querinio Rorando Censor, attesa la suddetta riferta, ha ordinato che possi da uno dei fanti del magistrato esser citato per stridor dei vivi e data notizia ad ripas di detto reverendo don Antonio Vivaldi ad istanza dei suoi creditori. Stridor dei vivi. Ecco la frase che li feriva. Le strida. Gli annunci ad ripas, sulla riva del canale, alla ricerca di una persona viva che fugge o che è scomparsa. Ma quel grido arriva più nel profondo, lacera e ferisce i vivi, che è rimasto o che è fuggito per vergogna. E suona sinistro come l'innesto artificioso e assurdo di 2 versetti delle scritture. Là sarà pianto e stridor di denti. Cristo è ritornato per essere il signor dei morti e dei vivi. Stridono i denti dei vivi. Ecco cosa restava a galleggiare confuso e molesto nelle menti agitate delle sorelle Vivaldi. Io credo di morire, ansimò Margherita. Ma voi non avete notizie d'Antonio? A voi ha scritto? Tornerà? Incalzò Zanetta. No, non ho più avuto una sua lettera da 2 mesi, non so che faccia a Vienna. Se n'è andato con pochi quattrini, senza una scrittura certa, senza una carica, senza un invito a corte. In autunno mi disse avrò da fare l'opera, ma intanto siamo ancora a giugno e mi domando come campa laggiù, il Dio l'assista e lo guardi. Le due non fiatavano. Zanetta si mordeva il labbro. Margarita, che era la più grande, fingeva di aggiustarsi nervosamente il manin. Animo, sorelle, io so cosa fare. Abbiate fiducia nel vostro fratello. Stanotte, ma deve essere notte fonda, nessuno dei pettegoli qui attorno ci deve né sentire né vedere, verrò qui con Zuan. Non batterò all'uscio, voi state in vista e quando sentite fischiare in canale l'arietta di Farnace, scendete ad aprirmi piano piano l'uscio. Poi ritiratevi, non accendete lumi, penserò tutto io. Ma cosa farete? Ma dove? Zitte, fidatevi che tutto andrà per il meglio. E si fece buio e scese sul rialto un'aria tiepidina e profumata di salsedine, fritto, garofani. Il silenzio, all'ora settima, era totale e fu allora che Francesco sbucò dalla calle di Sant'Antonio come un gatto, seguito dal suo grasso garzone di bottega, impareggiabile incipriatore di parrucche e rinomato sfregiatore di guance. Zuane inciampò subito in un bidone di rame messo lì per raccogliere l'acqua piovana. La campana rimbombò per tutta la calle, coprendo a malapena la bestemmia cinofila del pinguino garzone. Francesco imprecò, minacciò, diventò rosso in volto nel più completo silenzio. Fermi un poco. Nessuna reazione dalle finestre. Silenzio. Proseguirono fino alla riva e qui Francesco iniziò a fischiettare il motivo convenuto, ma la rabbia per quel primo intoppo gli impediva di atteggiare bene le labbra. Ne uscì un sibilo afono e stinto che comunque fu subito riconosciuto dalle sorelle, trepidanti come erano da ore a darsi il cambio alla finestra. Il portone cigolò come sempre, ma a quell'ora sembrò penetrante come uno squillo d'oboe. I due uomini si intrufolarono su per le scale alla zitta, nel buio più totale fino al secondo piano. Le due sorelle rientrarono invece al primo, chiudendosi piano nelle loro stanze col cuore che gli frullava. Francesco conosceva bene l'appartamento, ci aveva abitato nei primi 2 anni che i Vivaldi si trasferirono là, e infatti trovò subito in quello scuro il buco della serratura. La chiave girò fluida e in un attimo si trovarono dentro. Arrivarono, camminando a tentoni nel buio più completo, nella sala grande, Zuan dietro, ansimando come un mantice. Dopo un poco gli occhi si abituarono alla debole luce che filtrava dalle finestre che davano sulla riva. Senza esitazione Francesco si diresse allora verso i due grandi armadi che ben conosceva. Erano dipinti alla cinese, ma con quel buio parevano neri. Li tastò e sentì che erano già aperti, mentre il respiro grosso di Zuan alle sue spalle gli pareva sentirsi fin sul canale. Per un attimo stette fermo a respirare quell'odore di carta e inchiostro che gli era così familiare. Poi fece cenno al suo garzone di aspettare. Voleva essere lui a tirar fuori con cura quelle carte preziose e disporle in un certo modo per terra. Sapeva quanto accurato fosse suo fratello e come tenesse in ordine scrupoloso i suoi manoscritti. Stipò in pile diverse gruppi di manoscritti che solo lui sapeva riconoscere, anche al buio. Gli ci volle mezz'ora per togliere tutto in quel modo pignolo, scandito dal fiato grosso di Swann, che ogni tanto sbuffava per far capire che di sentirsi sprecato. I due iniziarono a spostare le risme e a portarle fuori, giù per le scale fino al mezzanino, poi dentro una piccola porta di legno grezzo, e Francesco indicava il punto esatto in cui poggiarle. Fecero su e giù per una quindicina di volte, ma alla decima un fascicolo scivolò giù dalla risma del madido ragazzo. Fermi tutti. Posare a terra la roba in silenzio, accidenta agli imbranati. Sul pavimento del mezzanino le finestre dipingevano una striscia di luce fioca che filtrava dall'esterno. Nella striscia il fascicolo caduto si mostrò a Francesco che si era chinato a raccoglierlo. Beatus vir RV 597. Autografo, partitura. Carta di provenienza veneta con filigrana a tre lune crescenti. Le pagine misurano circa 300 mm verticali per 225 mm orizzontali. Su entrambi i lati di ogni foglio sono pretracciati 18 pentagrammi ottenuti con un'unica azione. Sul recto, come sul verso, i righi non presentano nessun margine interno, il che consente alla musica di continuare ininterrottamente a cavallo della piaga centrale. Il frontespizio recita: Beatus vir in due cori a otto con due trom. Del Vivaldi. I pentagrammi sono marroni e presentano sfumature rossastre. Le medesime due varietà di carta appaiono nei fascicoli aggiunti del Laudate pueri in La maggiori. La collazione dei fogli è altamente complessa e testimonia un elaborato processo di revisione avvenuto durante la fase di copiatura del manoscritto. Francesco conosceva bene quelle cose, anche se faceva il parrucchiere come suo padre, ma a Venezia, cosa curiosa, i barbieri erano spesso violinisti e suo padre Giovanni Battista era anche uno dei più famosi virtuosi della città. Aveva insegnato lui il violino al primogenito Antonio e un po' di musica a tutti gli altri figlioli. Una folla di figlioli, cinque maschi e cinque femmine, i maschi tutti piuttosto scavezzacollo come lui. Sebbene fosse nato 11 anni dopo Antonio e a distanza di altri quattro fratelli, Francesco era forse quello che gli somigliava di più. Stesso nasone, stessi occhi vivaci e mento con una piccola fossetta. Ma non aveva quei capelli rossi che venivano da suo padre e che avevano fatto bollare Antonio col soprannome di Prete Rosso. E anche se lui non divenne mai musicista, i manoscritti musicali erano cosa di famiglia. Talvolta andava lui a comprare la carta pentagrammata al fratello quando stava per finire. Sapeva come si produceva, l'aveva visto fare tante volte nella bottega dei fratelli Zucconi, cartai proprio lì vicino, sulla riva del Carboni. Avevano dei rastrelli, ovvero penne multiple da 4 fino a 12 punte, per tracciare i pentagrammi, ma per fogli come quelli ci volevano 18 rastrelli fissati su una barra e la mano doveva essere fermissima per rigare insieme il foglio intero o foglio reale, senza che nessuna di tutte quelle linee si interrompesse o si sbavasse. Una volta asciugato, il foglio veniva piegato in quattro e le piegature dal lato minore venivano aperte col tagliacarte. Centinaia, migliaia di quei fogli erano stati riempiti di note da suo fratello. Com'è facile scrivere musica, credeva Francesco da piccolo. Basta riempire di punti e svolazzi quelle righe. Suo padre e suo fratello stavano lì giornate intere al tavolino a scrivere, copiare, pollice e indice medio della destra perennemente neri d'inchiostro. Cosa mai ci voleva disegnare quei bei pallini sulle righe? Pensava il piccolo Francesco, sgambettando per la casa in mezzo a tutti quei pallini musicali. Se ne accorse il giorno che nella chiesa della Pietà fu suonata la musica di un certo Dall'Oglio che aveva sostituito suo fratello come maestro dei concerti. Com'era possibile che quegli stessi pallini e righe nere potessero fare una musica così insulsa, così noiosa? E subito gli venne in mente di quella giornata in cui accompagnò suo padre Giovanni Battista, sua madre Camilla e le sue sorelle Margarita e Zanetta alla chiesa di San Lorenzo per sentire suo fratello maggiore che dirigeva i vespri. Gli rimase in mente proprio un pezzo di quel Beatus Vir quando tre uomini, un contralto, un tenore e un basso, intonarono il versetto In memoria eterna erit justus. Era stato noioso stare quasi 2 ore su quella panca ad ascoltare l'interminabile liturgia e quella valanga di musica. Poi, improvvisamente, quel brano l'aveva svegliato. Strano, eppure non era né un allegro né un pezzo di quelli con trombe e oboi che fanno saltare dalla seggiola. No, era un andante per violini e violette soltanto, rarefatto, esilissimo. E quando le tre voci iniziarono a cantare, lui, inspiegabilmente, si mise a piangere. Dicevano che l'uomo giusto sarà ricordato in eterno, ma intanto sembravano sospirare e gemere con una dolcezza e una semplicità a cui non potevi resistere. Tutto bene, padrone? Francesco non rispose, si rialzò e rimise il fascicolo sulla risma da cui era caduto, stendendolo con una carezza. Risalirono su, non era finita. Ormai gli occhi vedevano come fosse giorno in quel buio fitto. Passarono oltre alla stanza degli armadi vuoti, attraversarono la camera da letto e giunsero in un camerino in cui Francesco iniziò a tastare un terzo armadio ancora dipinto alla cinese. La chiavetta era difettosa, sbuffa, mastica, riprova, finché anche quest'armadio finalmente s'aprì. Da qui trasse e porse al grassone due violini, pregandolo con gli occhi sgranati di far somma attenzione, mentre egli prese con la sinistra una viola d'amore e con la destra un altro violino e cinque archi. Traversando la casa buia, Zoan picchiò il ginocchio contro una credenza con un tonfo sordo, arrancò in un frullio di passetti in avanti e riuscì, gonfiando le gote in un'imprecazione peggiore della prima, a tornare eretto senza rovinare addosso gli strumenti. Proseguì muto, affrettando noncuranza. Francesco guardò il suo garzone con gli occhi bianchi, allibito, senza riuscire a trovare gli insulti sufficienti. Uscirono per l'ultima volta dall'appartamento. Scesero e poggiarono gli strumenti su una panca del mezzanino. Solo Francesco tornò su a chiudere tutto, armadi e porta principale, mentre il garzone l'aspettava nel portico grondando salamoia. Le donne non dormivano, rose come erano dalla tensione, ma nessuna osò affacciarsi. I due uomini scivolarono via sulla riva del Vin, barcollando come galeotti usciti alla luce, e sparirono alla zitta tra le calli. Thank you.